in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che ha una classifica e un approfondimento su questa classifica che trovate solo sul nostro giornale e riguarda la situazione economica dei comuni, soprattutto con la loro in relazione a una delle fonti di reddito primarie per ogni comune, che è la riscossione delle multe. E questo è il titolo: città a rischio default, cioè fallimento, i flop della riscossione. Nel 2016, pensate, è stata incassata solo una multa su tre, ma ci sono anche tariffe non pagate, il 33,2%, e tasse non pagate, naturalmente, il 26,8%. Il debito ombra, e questo è il commento di Massimo Bordignon su questa questione della finanza locale. Altre segnalazioni dalla prima pagina del Sole 24 Ore: la domenica, il nuovo weekend, il nuovo ormai che dura da parecchi mesi, però è comunque una novità di questi, appunto, di questo degli ultimi mesi, ed è i due percorsi che trovate nelle pagine dei commenti. Da una parte c'è sempre un ritratto, una lunga intervista. Questa settimana è Maria Teresa Mascarello, che è una delle viticoltrici ma anche imprenditrici del vino più famose, più premiate d'Italia, è piemontese, l'ha intervistata Paolo Bricco, e dall'altra il viaggio nel lavoro del futuro di Luca De Biase, che trovate a pagina 7, quindi pagine 6 e 7. Poi l'intervista all'amministratore delegato di Elite, che è quel programma di Borsa Italiana che finanzia, è una sorta di incubatore per poi portare le aziende a quotarsi. Sapete che uno dei problemi dell'economia e della finanza italiana è lo scarso numero di aziende quotate rispetto ad altri paesi o economie con uno sviluppo simile alla nostra. E in questa intervista l'amministratore delegato, appunto, di Elite, di Borsa Italiana, Luca Pairano, racconta quali sono i piani soprattutto per le piccole e medie imprese, lo racconta Cristian Martino, caporedattore di Finanza, quali sono i piani per il 2018 sostanzialmente, per appunto aiutare, rafforzare ulteriormente questa parte di Borsa Italiana Elite, soprattutto rivolgendosi alle piccole e medie imprese. E tutta la questione del dissesto e di quanto una mancata riscossione di multe e di altri debiti che i cittadini o le aziende hanno verso i comuni, che può portare al fallimento di tanti comuni, qui ci sono tutte le classifiche, le trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. La prima pagina del Corriere della Sera invece si occupa, dedica il titolo più importante alle elezioni in Sicilia. Mancano circa un pochino più di mezz'ora e poi i siciliani, quelli che vorranno, perché si prevede un astensionismo record, andranno a votare. La notizia del Corriere della Sera è la nota che il ministro dell'Interno Marco Minniti ha mandato ieri a tutti i prefetti siciliani, che il Corriere della Sera sintetizza così: si rischiano brogli. La fotonotizia però è dedicata a Donald Trump e alla moglie Melania, perché Donald Trump sta facendo un viaggio all'estero, visiterà 5 paesi in 2 settimane. Il tentativo naturalmente è anche, sono soprattutto paesi dell'Asia, anzi sono tutti paesi dell'Asia: Giappone, Sud Corea, Cina, Vietnam e Filippine. E naturalmente il tentativo è quello, dopo le tensioni anche molto alte, a parte con la Corea del Nord, ma anche con la Cina, di ricucire un po' diplomaticamente i rapporti degli Stati Uniti con alcuni dei più importanti paesi asiatici. Il Messaggero, a proposito di Marco Minniti, ha ospitato un forum con Marco Minniti, ministro dell'Interno. Il virgolettato scelto per titolare il riassunto di questo forum, che poi trovate molto interessante, le pagine 2 e 3 del Messaggero, è: migranti, la paura va ascoltata. I riformisti devono capirla e favorire l'integrazione, i populisti la cavalcano. E ribadisce questo dato sulla diminuzione degli sbarchi del 30%, però poi vedremo anche su altri giornali che in realtà alcune rotte libiche si sembrano proprio riaperte, quindi gli sbarchi sono, le traversate e gli sbarchi hanno ricominciato ad aumentare. Vi segnalo il consueto intervento di Romano Prodi sul Messaggero della domenica a proposito di Cina, perché forse non abbiamo abbastanza capito, non abbiamo abbastanza discusso e analizzato, intendo in Occidente, il 19° congresso del Partito Comunista che si è tenuto da poco in Cina. ce n'è uno ogni 5 anni, con il tipo di economia davvero regolata di Stato che hanno i cinesi. Un congresso di questo genere delinea le linee guida per l'economia del paese per i successivi 5 anni e quindi anche praticamente per il mondo. In questo articolo in particolare Romano Prodi si concentra su quello che sull'atteggiamento della Cina verso la scienza, e vedremo anche un altro articolo sulla questione di come vengono censurati alcune scoperte scientifiche o alcune riviste che riportano scoperte scientifiche, riviste occidentali naturalmente, in Cina. Da qui quindi il titolo dell'intervento di Romano Prodi: se in Cina il governo detta la linea alla scienza. La Repubblica, come vi dicevo, si concentra su questa riapertura delle rotte dalla Libia. Sarebbero, secondo l'inchiesta di Repubblica, 20.000 le persone pronte a imbarcarsi. Anche Repubblica titola sulla Sicilia, ma vi segnalo in particolare l'articolo di un siciliano, tra l'altro Francesco Merlo, editorialista della Repubblica, che si dedica a questa grottesca vicenda di Giancarlo Tugliani, che è... Io non ricordo bene se effettivamente Gianfranco Fini e Elisabetta Tugliani si sono poi sposati. Comunque è il fratello della compagna, moglie di Gianfranco Fini, Elisabetta Tugliani, era latitante a Dubai. E come avete sentito anche nel GR, si è rivolto alla polizia perché si considerava importunato da due giornalisti, e così la polizia ha scoperto che era latitante, ricercato, e lo ha arrestato. E da qui il racconto di Francesco Merlo: si è arrestato da solo. È il primo latitante della storia del crimine che chiama la polizia perché i giornalisti lo importunano. E poi trovate il resto a pagina 13. Ci fermiamo un attimo, vi segnalo solo prima della pausa, scusate, che in Repubblica allegato a Repubblica, come ogni domenica, trovate l'Espresso, il primo Espresso firmato dal nuovo direttore Marco da Milano, perché sapete Tommaso Cerno è diventato condirettore di Repubblica, e si concentra naturalmente molto sulla politica, sulle elezioni in Sicilia che ci sono oggi, ma anche il caso Ostia e molti altri test pre-elezioni politiche della primavera 2018. Ci fermiamo un attimo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. La Stampa ha un titolo completamente diverso che ci ricorda un fatto che La Stampa giustamente, secondo me, collega anche alla questione delle dilaganti denunce di molestie sessuali di donne a danno di donne contro gli uomini, soprattutto nella stragrandissima maggioranza dei casi, dilagano, perché dilagano dagli Stati Uniti alla Francia e a tanti altri paesi. E quindi La Stampa mette insieme questa questione con i fatti di cronaca, con il fatto che da 4 anni è bloccata in Senato la legge contro l'omofobia. In prima pagina naturalmente anche la questione del voto in Sicilia, e invece un editoriale di Maurizio Molinari, direttore della Stampa: la minaccia degli ultimi dittatori, le armi di Kim Jong-il, il dittatore della Corea del Nord, e di Assad della Siria, che ricordiamolo è sempre al suo posto, anche se di Siria abbiamo smesso praticamente di parlare. Avvenire, migranti, la doppia sfida, perché ci sono, tra l'altro, a proposito di Siria, l'Avvenire è l'unico che non si è dimenticato della Siria. C'è in prima pagina una foto di Aleppo. Sentivamo prima delle macerie del terremoto in Italia, ecco un'altra città sotto le macerie, Aleppo. Aleppo riparte tra le macerie, racconti dalla città martire siriana. E poi un'altra notizia che trovate solo su Lunedì, solo sull'Avvenire: c'è un'emergenza medica in Madagascar, che certo uno potrebbe dire è un'isola lontana, non ci riguarda, però è una malattia che ha sicuramente anche molte ha un significato che ci riporta veramente al passato, ed è la peste. C'è una nuova epidemia di peste in Madagascar e finora sono 127 le vittime. Il giornale preso Tugliani, game over forse, ricorderete che dello scandalo in cui fu coinvolto Gianluca Tugliani, fratello del Giancarlo Tugliani, diciamo cognato di Fini, era coinvolto in questa compravendita con la quale pare essersi molto arricchito, di una casa che in realtà era dell'allora Alleanza Nazionale, di cui Gianfranco Fini è stato per tanto tempo segretario. E questo scandalo l'aveva molto approfondito il giornale, e quindi anche così si giustifica lo spazio dato a questa notizia. Richiamata in prima pagina un lungo articolo di Oscar Grazioli a pagina 21, che racconta delle sempre più numerose conferme scientifiche che anche gli animali hanno dei sentimenti e soprattutto sanno esprimere la sofferenza, il dispiacere con le lacrime. Anche gli animali piangono e capiscono se soffriamo. Il Giorno ha un approfondimento molto interessante, che poi trovate le pagine 2 e 3, che riguarda lo stato della sanità pubblica anche. Il titolo è Anziani troppe pillole. Pensate, un costo di 16 miliardi perché ci sono 5 milioni di, vengono chiamati anziani over 65. Io credo che dovremmo un po' rivedere questa definizione di anziano. In ogni caso, over 65 prendono 7 medicine al giorno e 1,5 milioni di, ci sono 1,5 milioni di ricoveri, pensate, per eccesso di farmaci perché sarebbe inutile un quarto delle ricette. Questa è un'antica questione, mio padre medico lo dice da sempre, insomma, che bisogna stare molto attenti a quanti farmaci o esami si prescrivono, se da una parte naturalmente i medici vogliono tutelarsi, poi da accuse a posteriori di non aver prescritto sufficienti farmaci, dall'altra bisognerebbe appunto sempre pensare che i farmaci hanno sempre effetti collaterali e soprattutto che tanti esami sono inutili. Il Fatto Quotidiano ha una sorta di doppia copertina perché annuncia una sorta di restyling, e quindi su questa prima copertina c'è scritto, soprattutto in vista naturalmente del voto alle politiche della primavera del 2018, un fatto al giorno leva le bugie di torno. E a fronte di questa copertina, poi uno apre e guarda la copertina ufficiale, e il titolo è questo: Banche, Renzi e Casini si fanno l'indagine tête-à-tête in privato. Il riferimento è al fatto che c'è stato un incontro in Consiglio regionale a Firenze tra Casini, che è il presidente della commissione che indaga sugli scandali bancari, e Matteo Renzi. E secondo il Fatto Quotidiano, che ha appena annunciato un fatto al giorno leva le bugie di torno, questo sarebbe l'indagine tête-à-tête. Notarsi che tra l'altro abbiamo anche saputo che a brevissimo questa commissione interromperà i lavori. Si sapeva che era una commissione i cui lavori sarebbero stati molto difficili perché il tempo era veramente poco. Verrà sciolta nel momento in cui verranno sciolte le Camere, quindi ancora prima naturalmente delle elezioni politiche, ma questa è l'interpretazione, spacciata per fatto, direi a questo punto, di questo incontro tra Renzi e Casini. Libero, preso Tugliani, fini trema. E poi vi segnalo un articolo sulla questione delle molestie sessuali di Renato Farina, anche qui con così, buona pace dei fatti, perché il titolo di Renato Farina è Se il molestatore è islamico, nessuno osa licenziarlo. Il riferimento è a Tariq Ramadan, che è un grande esperto di Islam molto rispettato nel Regno Unito, insegna a Oxford, è stato accusato anche lui di molestie sessuali e per ora non è stato licenziato. Io vorrei sapere da Renato Farina, a parte Kevin Spacey, da parte di Netflix, quanti altri sono stati licenziati invece, visto che secondo lui Tariq Ramadan è l'eccezione, seguito alle accuse di molestie sessuali. Finora nessuno, poi vedremo e forse vedremo anche Tariq Ramadan, forse verrà licenziato. Sempre su Libero, un lungo editoriale di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che si dedica a tre argomenti: Giulio Regeni, la vicenda di Giulio Regeni, l'arresto di Gianfranco Tugliani e il sesso. E di questo vi leggo una parte perché la trovate a pagina 11. Ed è non che stupiscano particolarmente parole di questo genere da Vittorio Feltri, però è sicuramente una delle cose, a mio modo di vedere, più sessiste che io abbia letto come commenti su questa vicenda. L'attrice Trevisan accusa il regista Tornatore: mi saltò addosso, scappai. Basta con queste storie poco o per nulla credibili. Denunciare tentativi di seduzione forzosa è diventato una moda. Le donne credono di averla inventata loro la cosetta sulla quale siedono, che non è un tesoro. Ma vi rendete conto dei toni, della violenza del ragionamento, del disprezzo che si legge tra queste righe? Uno gliela chieda, se non gliela danno, chi se ne frega. In giro ce ne sono tante in cerca di clienti. Se la Trevisana ha respinto Tornatore, sono affari suoi. Denunciare aggressioni, aperta parentesi, punto interrogativo, chiusa parentesi, anni dopo è ridicolo, assurdo. Ma cosa pensano le donne di noi? Attenzione, leggo letteralmente. Scopare è un esercizio piacevole se condiviso, altrimenti è una seccatura. Ai maschi capita di farlo per educazione, per non umiliare le signore che hanno di fronte, le quali se non ci stanno lo dicano e se ne vadano a spasso, ma la smettano di denunciare abusi che sarebbero stati commessi il secolo scorso. Non ne possiamo più di certe denunce tardive. Lo scorso anno andava il tacco 12, quest'anno va lo stupro antico, punto che palle, punto. No, mi fermo qua, ce n'era anche un'altra parte. Direi che la cosa più... così che dovrebbe saltare all'occhio a tutti, anche ai fan più sfegatati di Feltri o del suo bizzarro argomentare, è che quasi nel 99% dei casi una donna è fisicamente meno forte di un uomo e che quindi di fronte a qualsiasi molestia che venga percepita anche come una minaccia fisica, una donna non può reagire, perché avrà sicuramente la peggio. Quindi questo già dovrebbe essere un argomento che sgombra moltissimi dubbi dal discutere. Poi su tutto il resto, sullo scambio di favori sessuali, il ragionamento è molto complesso e non mi ci addentro. La verità, banche è vietato indagare sui crack rossi, perché questo è il riferimento è al fatto che è stato chiarito ieri dai presidenti di Camera e Senato che la commissione d'inchiesta, come dicevamo, dovrà interrompere i lavori quando verranno sciolte le Camere. La cosa che mi fa impressione della fotonotizia è che si parla di un'altra accusa, questa volta è Giuliana Margulies, la protagonista di una serie TV, ma forse la ricorderete anche come l'innamoratissima di George Clooney in ER. Cari maschi, non avete idea di che significhi sentirsi prede, però è significativa l'immagine, perché è una Giovanna Margulies molto sexy, con le gambe incrociate, un paio di scarpe di quelle con sotto la suola rossa ai suoi piedi. E qui offro un altro spunto, ripeto, non mi dilungo su questo, però sicuramente dovremmo riflettere anche noi donne sull'immagine sempre che si trasmette, con la nostra naturalmente complicità, di perenni, costanti richiami sessuali per qualsiasi cosa si pubblicizzi. Ultimissima segnalazione prima della pausa sul traffico: il manifesto sotto un ponte, il riferimento naturalmente è alla Sicilia, alle urne e il ponte sul distretto. Ci sentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando sms o whatsapp al 349-238-6666. Un saluto particolare a Monica, che comunque mi ringrazia, anche se esordisce dicendo che devo sforzarmi di essere più obiettiva e meno moralista. Proprio moralista non, se si riferisce a quello che ho detto sulle molestie sessuali, no, in realtà credo di essere stata obiettiva e niente affatto moralista, però comunque grazie Monica, magari mi riascolterò e vedrò se le posso dare ragione. Dalle pagine interne, velocemente, prima di passare ai supplementi della domenica, vi segnalo sul Corriere della Sera, qui tradisco una passione personale che è quella per Tiziano Ferro, perché martedì sul settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera ci sarà proprio Tiziano Ferro, che poi all'interno racconta: così ho vinto la depressione, mi isolavo ma la musica per me ha fatto miracoli e ora voglio aiutare chi nasconde la propria sofferenza. E poi naturalmente oggi è il giorno non solo delle elezioni in Sicilia, per fortuna, ma anche della Maratona di New York, che si tiene sempre la prima domenica di novembre, e quindi tanti approfondimenti su tanti giornali. Sul Corriere della Sera il mondo corre con New York, e Giuseppe Sarcina ci racconta un po' le storie di questa grande maratona. Ci saranno 50.000 persone, pensate, 3.000 solo gli italiani. Dopo gli americani, credo che anche quest'anno gli italiani siano la nazionalità di corridori più o meno professionisti che partecipano alla maratona di New York. Passiamo ai supplementi domenicali. Cominciamo come sempre breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Vecchi, e la citazione da una poesia di Giovanni Giudici. Ed è questa la citazione: non onorate i vecchi, abbiatene pietà, perché sono gli specchi di come si finirà. E scrive Ravasi: c'è un paradosso ai nostri giorni. Da un lato si proclama il rispetto per gli anziani e la loro tutela, ma d'altro lato li si relega in ospizi simili a lager, dimenticandoli. La sferzante considerazione che ho proposto è di un poeta che ho conosciuto anche personalmente, che è morto nella sua amata Liguria a 87 anni nel 2011, Giovanni Giudici. L'antica sapienza cinese invitava anche il giovane ogni tanto a toccarsi la faccia per sentirvi sotto il teschio futuro. Vivere nell'illusione di una perenne giovinezza, escludere qualsiasi meditazione sulla morte, ignorare il progressivo declino fisiologico imbellettandosi, non è un atteggiamento sapiente. Fissare lo sguardo su un volto ormai rugoso è allora un atto non solo di attenzione per l'anziano, è anche per tutti una lezione di realismo, di umiltà e di coraggio. E a proposito di realismo, la copertina vera e propria del Domenicale è una lunga recensione di Armando Torno a un dizionario degli illuministi che è appena uscito in Francia. È proprio una nuova pubblicazione che si occupa di questo importantissimo periodo storico, e il titolo della lunga recensione è «Illuministi sì, ma non troppo. Non tutti credettero alle magnifiche sorti progressive», così come vennero definiti poi dagli illuministi italiani. Poesia, teatro, letteratura e ambienti ecclesiastici si opposero con forza e ironia, senza attendere il lavoro della ghigliottina. Poi un'altra lunga recensione, questa volta di Andrea Cortellessa, alla nuova edizione del Viaggio in Italia di Guido Piovene, uno dei sicuramente dei più bei libri dedicati al nostro paese del secolo scorso. Viene riproposto 60 anni esatti dopo la sua prima pubblicazione e mantiene, scrive Andrea Cortellessa, l'efficacia di un reportage ben ancorato alla realtà, senza false mitologie, acutamente profetico. E poi un altro ritratto di una donna eccezionale, che fu Marie Curie, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Ci sarà uno spettacolo dedicato a Marie Curie che va in scena a Roma, e poi è anche in libreria una nuova biografia, La signora dei mondi invisibili, scritta da Marco Ciardi, pubblicata da Oepli, signora della radioattività. Poi lo speciale, sono 4 pagine dedicate alla nuova stagione della Filarmonica della Scala. Sapete che il giorno di Sant'Ambrogio, il 7 di dicembre, sarà come sempre l'inaugurazione della stagione lirica e di balletto, ma quella della Filarmonica inizia un pochino prima. Riccardo Chailly, che inaugurerà appunto questa nuova stagione, si racconta a Quirino Principe, e poi ci sono altri approfondimenti. Una segnalazione ve la faccio poi, visto che è in corso ancora, credo fino a oggi, Lucca Comics, che è questa grande manifestazione che c'è a Lucca sul mondo del fumetto e dei giochi. La recensione di Giorgio Fontana è un libro su Andrea Pazienza, che è stato uno dei più grandi, chiamiamolo fumettista, comunque illustratore, autore di romanzi a fumetti, come si dice oggi. Il tratto del sovversivo, questo è il titolo della recensione al libro di Stefano Cristante, Andrea Pazienza e l'arte del fuggiasco. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Chantal Joffi. Dall'interno vi segnalo una bellissima intervista a Bill Bryson, che è un... non so neanche io bene come definirlo, comunque un romanziere, ma anche saggista, ma anche divulgatore. Ha scritto tantissimi libri, breve storia di quasi tutto quello che personalmente mi ha affascinato di più. Ora però pubblica un nuovo libro che si intitola Una passeggiata nei boschi, è uscito in realtà già nel 2000, ora viene ripubblicato, ed è appunto tutte le riflessioni di Bill Bryson su quanto sia forse anche interessante, vantaggioso e illuminante allontanarsi dalla pazza folla. Ultimissima segnalazione dalla lettura, una recensione di una mostra che si sta per aprire, che è in corso, scusatemi, e si chiuderà il 21 di gennaio alla Fondazione Baieler in Svizzera, dedicata a Paul Klee, la scoperta del colore e poi purtroppo del nazismo. Quindi c'è questa recensione che spiega naturalmente qualcosa della mostra, ma anche si rifà un po' alla biografia di Paul Klee. dalla lettura un breve racconto di Edgar Queret, divertentissimo e molto bella anche l'illustrazione. C'era un riccio innamorato, è una storia naturalmente di fantasia, quasi una fiaba per adulti, che aveva deciso, questo riccio, di rapinare una banca per offrire un'altra vita a una prostituta. Lasciamo veramente correre l'immaginazione. La copertina di Robinson invece è dedicata a Primo Levi, a Se questo è un uomo, anche di questo libro ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La recensione è fatta da David Grossman, che è uno dei più importanti scrittori israeliani contemporanei. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.